Ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. Ero stato accolto dunque, per quanto non lietamente. Riprese a camminare e io al suo fianco, con rabbia e esultanza e ancora impazienza, perché le vie del Signore dovevano essere tanto tortuose. Perché questo rabbi tanto chiuso e distante? Seguimi un po' discosto, mi disse senza nemmeno guardarmi. Amo pensare camminando. Ma aveva sottomesso. Se non era l'unto che attendevamo, chi era? Elia? Un profeta o emanazione di Belzebub? Comunque, ormai nelle sue mani avevo messo la mia vita. Si fece notte e continuammo a camminare al buio. Egli sembrava conoscere bene le piste e del resto non era sopravvissuto 40 giorni solo nel deserto. Facemmo un lungo giro per non entrare in Esbon, terra dei figli di Ruben, e anche dopo, quando abbaiare di cani e odore aspro di capre e greve di porci ci avvertivano che eravamo presso un villaggio, egli si faceva guardingo, evitava ad entrarci. Certo, aveva timore d'essere arrestato. Tardi sorse un ultimo quarto di luna e si poté camminare più agevolmente. Il deserto era finito. Il vento faceva rumore tra alberi e siepi, l'aria era profumata di menta e rosmarino. Ad un tratto si fermò, ascoltando. Mi disse: cammina avanti. Troverai un villaggio di poche case intorno ad un pozzo. Attingi e portami da bere. Se qualcuno ti chiede qualcosa, di che è per Gesù di Nazareth, ma non rivelare dove mi trovo. Feci come mi aveva ordinato. Tra un abbaiare insistente di cani, senza tuttavia che alcuno uscisse a chiedermi. Bevve a lungo dalla zucca con la quale gli avevo portato l'acqua. Disse: penso che qui possiamo dormire, non c'è pericolo. Si sdraiò stretto nel mantello, una pietra per cuscino. Feci lo stesso alcuni passi distante. Non si addormentò subito. Dopo un poco mi disse: devi sapere che sono un uomo duro. Prendo quel che non ho messo e mieto quel che non ho seminato. Lo implorai: rabbi, non parlare per enigmi. Sei tu l'unto? Meditò prima di rispondere e disse: l'unto è, ma non può rivelarsi se non completato da tutti. Coinvolgeva, vincolava, pretendeva. In cambio offriva durezza. Mi addormentai che schiariva a oriente e i galli del villaggio già da un pezzo cantavano. Mi svegliai ad un ridere allegro. Era giorno fatto. C'erano dei bambini con lui che gli avevano portato un cestino d'uova. Disse: i bambini mi sono cari. Sono i più vicini al padre. Camminammo tutto il giorno verso la Galilea, dove né i soldati di Cesare né le guardie di Erode andavano a trarre in arresto patrioti o profeti. Lui avanti, io qualche passo indietro. Potenza o vanità? Io dunque, dei 12 di cui tanto si è parlato e si parla, fui il primo. Vero è che non fosti tu a chiamarmi, con parola o sguardo o cenno, bensì io ad offrirmi tra incertezza e passione, tuttavia ostinato nel mio proposito. E tu non senza perplessità e ritrosia mi accettasti, e in vero non era da tutti fare ciò che a me avresti chiesto di fare. Venivi dal deserto, la tua lotta con Satana dopo i 40 giorni di digiuno l'avevi vinta, sì, ma è anche scritto che dopo averti tentato in tutti i modi, il maligno si partì da te fino ad altra occasione. Quale occasione? E saresti stato in grado di vincere ancora da solo? Io ti dicevo, Rabbi, prendimi, per un re darò la mia vita. E tu, conoscendo che di morte si trattava, accogliesti la mia preghiera. Gli altri invece li chiamasti tu, non si sa quanto casualmente, e comunque la loro croce non sarebbe stata tanto pesante, non subito almeno. Cominciasti con Simone e Andrea, suo fratello. Erano pescatori sul lago di Tiberiade. La pesca non gli andava per niente bene, perciò gli dicesti: seguitemi e io farò di voi pescatori d'uomini. Lasciarono le reti e si unirono a noi. Poi toccò a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, anch'essi pescatori, soci con Simone nella proprietà della barca. Stavano rassettando le reti quando tu li chiamasti e immediatamente lasciarono il padre e le reti e vennero con noi. Poi ne chiamasti altri e altri ancora e tutti vennero e io, tuttora dubbioso, mi chiedevo se mai la vanità potesse mostrarsi coi segni della potenza. Ti fermavi a parlare nei crocicchi, presso i pozzi, nei mercati, nelle sinagoghe, nei villaggi. Facevi qualche prodigio, molti credevano in te e tu acquistavi autorità presso di loro. Dicevi: preparatevi perché è prossimo l'avvento del regno. Chiamavi alla speranza, esortavi all'attesa, ed era bene ciò che facevi. Dopo, quando i tuoi interessi diventarono più vasti e fu opportuno acquistare autorità anche al di là della cerchia degli umili, tu, col braccio teso e il dito puntato, un gesto di imperio regale, chiamasti il gabelliere Levi, che poi ti seguì per sempre. E la sera della chiamata egli diede una cena in tuo onore, alla quale parteciparono anche i suoi colleghi, che come lui riscuotevano imposte per conto dei romani, e molti tra i farisei erano meschini e invidiosi. Ti biasimavano perché sedevi a tavola con gente venduta al nemico del nostro popolo, ma tu, che credevi figli di Dio anche gli esattori delle imposte, rispondesti con parole del libro: voglio misericordia e non sacrifici. E aggiungesti che non eri venuto a chiamare quelli che già stavano con noi, bensì la gente di fuori. E sicuramente avevi un piano in testa. Per l'imminente lotta bisognava guadagnarsi i sostenitori non tanto tra coloro che comunque sarebbero stati dalla nostra parte, quanto tra coloro che al momento dell'azione avrebbero potuto mettersi dalla parte del nemico. Anche questo era bene di quel che facevi. Poi avvenne che il gruppo dei seguaci si fece troppo folto e fu necessario selezionare, stabilire ordine e gerarchia affinché non ci fosse confusione al momento di agire, quando è bene sapere chi comanda e chi dà ubbidire. Perciò salisti su di un'altura e dopo aver passato l'intera notte a interrogare l'Eterno, nostro Dio, tu lo chiamavi Padre e ci avevi insegnato una preghiera da recitare insieme: Padre nostro che sei nei cieli. Scendesti verso la folla che non senza ansia attendeva e con fermezza nominasti gli eletti ad uno. Primo Simone, poi chiamato Pietro, secondo Andrea, suo fratello, poi gli altri due fratelli, Giacomo e Giovanni. Già lo amavi, Giovanni, e più lo avresti amato. Lui che quando parla di me mi dice ladro. E Filippo, e Bartolomeo, e Levi, il gabelliere, il cui nome sarebbe stato Matteo, e Tommaso, e Giacomo, figlio d'Alfeo, e Taddeo, e Simone, che come me era stato con gli zeloti prima di seguirti. 11 ne avevi chiamati, e in qualche modo si sapeva che dovevano essere 12, 12 le tribù di Israele, uno ne mancava, e il 12esimo non potevo essere che io. Chi avrebbe potuto ciò che io potevo? Ma tu esitavi, forse per via di Giovanni che mi odiava. Infine, senza guardare né me né Giovanni, dicesti: Giuda, figlio di Simone. E io, guardandoti, dissi forte, il mio sguardo in quello del tuo unto, o Signore. Ma il tuo sguardo mi mancò. Così io, che ero stato il primo a seguirti, a offrirti morte e vita, fui nominato per ultimo. E ultimo sono sempre, quando elencano i 12, gli apostoli. Sono il reietto, colui che poi ti tradì. In effetti, pur vivendo nel gruppo, stavo in disparte. Ero diverso. Non avevo patito povertà se non per averlo voluto. Conoscevo la legge e le scritture, mentre essi erano rozzi e ignoranti, ad eccezione di Giovanni, forse bello ed elevato dalla sua ambizione. Era giovanissimo, ancora quasi un ragazzo. Dovette intuire il patto non detto che c'era tra noi e subito mi odiò. Ma lui sarebbe stato capace? Anche tu mi lasciavi da parte, mi trascuravi. Soltanto quando ti prendevano pensieri di morte, la previsione dell'ora ultima, mistero e angoscia, allora soltanto i tuoi occhi di sfuggita mi cercavano e io con gli occhi ti rispondevo che ero pronto alla chiamata. Non sarei mancato. Così accadde. Non mancai. Ma obiettivamente che bisogno c'era di tradimento? Perché certe profezie dovevano essere adempiute e io, impiccato ad un ramo, tu, la tua morte, che volevi, avresti potuto raggiungerla senza difficoltà né complicità, se era soltanto la tua morte che volevi. Ma quale altro impegno o necessità era nella tua mente, Rabbi, o nel tuo cuore che coinvolgeva e vincolava tutti? Chi mancò poi, a parte quelli che abbandonarono come previsto? Io? Tu? Il padre? Io arrivai all'albero interrogandomi, interrogando l'Eterno. Non ci fu nemmeno allora risposta. E ciò che per disperazione feci è giudicato indegno di misericordia. Ma tu, Rabbi, lo sai, feci quel che potei. Non avevo messaggeri del Signore dalla mia parte. Io ero soltanto un uomo. In Galilea, lontano dalle guardie di Erode e dai soldati di Roma, egli cominciò la sua missione rivolgendosi ai poveri, agli umili, agli infelici, a tutti coloro che con maggior rassegnazione sopportavano ingiustizie e dominazioni, per accendere in essi una speranza. Il regno è vicino, che li rendesse consapevoli della loro forza, della possibilità di cambiare. Sapeva parlare d'amore con meravigliosa semplicità. Ama il prossimo tuo come te stesso, era la sua incessante esortazione, e poco importava che essa fosse già nel libro, egli la pronunciava con un vigore nuovo, ne faceva un comandamento, e la gente, se non persuasa, ne era almeno colpita, poteva immaginare una rinascita della fede, un ritorno alla grandezza dei padri, quando Israele compiva grandi imprese con la spada dell'Eterno. Venga il tuo regno, si pregava. Pubblicamente nelle strade, nei mercati, nelle sinagoghe, lungo le carovaniere, quando incontravamo gruppi di viandanti, egli ammoniva, consolava, incitava: cambiate vita, amatevi l'un l'altro, siate uniti, beati quelli che piangono perché saranno consolati. Una volta, ma con voce tanto sommessa che pochi lo udirono e nessuno lo capì, disse: io sono la luce del mondo. Dopo il battesimo, il digiuno nel deserto e la vittoria su Satana, si sentiva nella pienezza dello spirito. Occasionalmente, quasi controvoglia, compiva anche qualche prodigio. Storpi e indemoniati per lo più, come facevano anche tanti altri profeti meno probabili di lui, ma il suo potere aveva più lunga efficacia. Mai ci capitò la disavventura di dovercela dare a gambe per scappare a insulti, bastonate, sassate. Finché non gli venne la bella idea di tornare a Nazareth. Nazareth di Galilea era il modesto villaggio dove era cresciuto e da dove era venuto via non molto tempo prima, forse pensando che non ci avrebbe rimesso piede tanto presto. Che cosa lo ricondusse lì? Esibizionismo? Senso di superiorità? Cedimento romantico o chissà mai, impazienza? Vi arrivammo, ero il suo solo seguace ancora, un venerdì che già faceva buio e non volle andare a casa dei suoi. Ci rifugiammo in una grotta e passammo gran parte della notte a pregare, non insieme, ma ciascuno per conto suo, e io, come sempre, chiedevo all'Eterno un segno che mi facesse capire se quel rabbi, al seguito del quale m'ero messo con tanta buona volontà, fosse l'unto, o un profeta qualsiasi, o un cialtrone simile ai tanti che allora giravano per le terre di Israele, solo un po' meno cialtrone. Non ci furono segni. Il mattino dopo recitammo insieme la preghiera: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. Poi s'avviò risoluto, io dietro, verso il centro del villaggio ed entrò nella sinagoga, che era affollata di fedeli per la cerimonia del sabato. Tutti lo conoscevano, e naturalmente lui conosceva tutti, ma non guardò nessuno. Raggiunse un posto libero e si sedette, rimanendo per qualche tempo raccolto. Poi, come preso da ispirazione, di colpo si alzò. Chiese all'incaricato il libro del profeta Isaia, svolse il rotolo, trovò rapidamente il passaggio da leggere. Ora era sereno, fermo, solenne. La sua giovanile bellezza risaltava in mezzo a quella comunità di contadini, pastori, artigiani, dalla quale bene o male egli stesso era uscito, prendendo poi chissà come altra strada. Lasciò passare un tempo opportuno e quindi lesse con voce lenta ed eguale, senza ombra di sussiego, come leggendo una roba da niente. Lo spirito del Signore è su di me, perché mi ha scelto per portare la buona notizia ai poveri. Mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri, per restituire la vista ai ciechi, per liberare gli oppressi, per proclamare l'anno gradito del Signore. Finito di leggere, riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'incaricato, tornò a sedersi al posto di prima e lì stette, fermo, nella sua maestà. La gente lo guardava stupita, ma anche perplessa, chiedendosi il significato di tutto ciò. Anch'io me lo chiedevo. Dicendo la liberazione dei prigionieri, pensava anche al battezzatore che si trovava appunto nelle carceri di Erode e la vista ai ciechi che egli intendeva restituire riguardava limitati prodigi o aveva valore più vasto, come far capire le cose a coloro che non arrivavano a capirle. E la liberazione degli oppressi poteva avere significato altro da quello che si poteva letteralmente intendere. E l'anno gradito del Signore era lecito pensarlo come qualcosa di diverso dal tempo della liberazione dagli infedeli. Egli parlava sempre così, vincolando chi l'ascoltava al dovere d'un'interpretazione, anche d'un oscuro impegno talvolta. Ma la gente della sinagoga di Nazareth non sembrava trovare interpretazioni soddisfacenti e quanto agli impegni preferivano tenersi alla larga. Si guardavano l'un l'altro interrogativamente, facevano domande e commenti sottovoce, ma sempre meno sottovoce, e il brusio andava crescendo. Egli non lo lasciò crescere oltre misura. Alzò una mano e quando li ebbe tutti silenziosi e attenti, disse con solennità: «Oggi questo passo della scrittura si è avverato, come avete udito». Con la solennità, ancor più che con le parole, aveva voluto far loro capire che egli, dall'Eterno nostro Dio, aveva avuto un incarico grande e speciale, con potestà di annunciare, liberare, guarire, e la gente, per quanto semplice, aveva capito bene quel che gli voleva far loro intendere, però non avevano l'aria di accettarlo. Ripresero a mormorare, tra scandalo e meraviglia: che razza di improntitudine! Ma non è il figlio del falegname Giuseppe? E sua madre non è Maria, figlia di Siba? E i suoi fratelli non si chiamano Giacomo, Giosuè, Giuda e Simone? E le sue sorelle non impastano la farina, non accendono il forno, non vanno al pozzo qui in mezzo a noi? Ci vuole forse abbindolare o buscherare? Il rabbi sentiva l'avversione crescere contro di lui e non se ne spaventava. Ma ad un certo momento il volto gli si infiammò di collera e disse con forza: «Voi avrete sicuramente sentito dire che io dico parole di verità e compio prodigi. Le parole di verità le ho dette anche a voi, però prodigi tra voi non ne compirò perché non mi avete accolto bene. Del resto, in nessun posto un profeta è tanto disprezzato come nel suo paese, fra i suoi parenti e in casa sua. Ma in verità vi dico, io sono stato scelto». Al sentir queste parole dette quasi a sfida, i paesani si infuriarono e, alzatisi, lo afferrarono e spinsero fuori dalla sinagoga. Lo trascinarono fin sul ciglio del dirupo sopra il quale era costruito il villaggio e volevano buttarlo giù, ossia, in pratica, tenuto conto dell'altezza dello strapiombo, ammazzarlo. Egli li lasciava fare. Non si opponeva alla violenza. Pareva intendesse lasciar loro la finale responsabilità di qualsiasi cosa fosse successa. Non si capiva se vi fosse nel suo atteggiamento una residua o nuova magnificenza, o se egli avesse smarrito del tutto quella maestà di cui pur brillava solitamente. Fatto è che continuava a lasciarli fare, e così veniva assumendo sempre più l'apparenza d'un poveraccio, come ne avevo visti tanti. Comunque, per me era sempre il meno improbabile profeta nel quale mi fossi imbattuto, perciò mi addolorava che facesse una fine tanto brutta, ma che potevo farci? Ormai stavano per buttarlo giù. Invece, d'un tratto, trovò modo di alzare la mano destra e sollevò su di loro uno sguardo corrucciato nel quale era riapparsa integra la sua maestà. E immediatamente quelli lo lasciarono, smisero la violenza, restarono a guardarlo con stupore, perfino con sottomissione. E come un re che si stia riprendendo da un piccolo incidente, egli passò in mezzo a loro, allontanandosi. Lo seguì, naturalmente. Uno che possedeva tale potere era in grado di fare molto per la causa d'un popolo oppresso. Non disse parole mentre ci allontanavamo da Nazareth verso Cafarnao, che stava in riva al lago di Tiberiade. Sparita l'ira e compiuta l'azione d'imperio, gli era rimasta una mortale tristezza e chissà mai quanto sconforto. Qualunque fosse il frutto al quale ambiva recandosi nel paese di casa sua, io ero ancora il suo unico seguace. Osai avvicinarmi. «Rabbi, hai ragione tu. I più difficili da convincere sono quelli di casa, ma le tue parole erano giuste. Io credo che tu sia venuto per la liberazione del nostro popolo oppresso». Meditò qualche istante su ciò che gli avevo detto. Forse era cosa lontana dalla sua mente in quel momento. Poi fece un cenno per significare che dovevo camminare discosto e io ubbidì. Era un uomo duro, me l'aveva detto. Ma di uomini come lui avevamo bisogno se volevamo vincere Roma. Marco Foschi ha letto La Gloria di Giuseppe Berto. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.